America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Information that would incriminate Hillary and her dealings with Russia and would be very useful to your father. This is obviously very high level and sensitive information, but is part of Russia and its government support for Mr. Trump. Wow. Ecco, the smoking gun, la pistola fumante per lo scandalo Russiagate. Ieri vi dicevo delle anticipazioni del New York Times sui rapporti del primogenito del presidente Trump, Donald Trump Jr., con esponenti del governo russo. Oggi abbiamo le email inviate da un mediatore per conto di un ex socio russo del padre. Ecco la prima, 3 giugno 2016, Trump e ormai il candidato repubblicano. Virgolette, ci sono informazioni incriminanti per Hillary nei suoi affari con la Russia. Sarebbero molto utili a tuo padre. Si tratta ovviamente di informazioni di altissimo livello e molto delicate, ma parte della Russia e dell'appoggio che il suo governo dà a Mr. Trump. Chiuse virgolette. Beh, devo dire, più chiaro di così è impossibile. Il governo russo vuole aiutare Trump con informazioni segrete su Hillary. Cosa risponde Trump Jr.? Virgolette. Se quel che dice è vero, I love it. Adoro. Soprattutto per l'estate avanzata. Insomma, c'era già una programmazione, un'apertura a lavorare con un governo straniero per interferire nelle elezioni americane. Poi molti scambi di mail e l'incontro 6 giorni dopo, il 9 giugno, fra Trump Jr., il genero di Trump, Jared Kushner, il capo della campagna Paul Manafort, con l'avvocatessa russa Natalia Vezhelnitskaya, vicina al Cremlino. Storia intrigante e complicata, vi darò dettagli, ma prima... Cosa significa questo per l'inchiesta sul Russiagate? Where integrity is at the heart and soul of what we do. And I think that is a quintessential core value that postures us for success in the future. Robert Mueller, ex capo dell'FBI, capo dell'inchiesta. Per lui queste sono le prime prove di un contatto diretto tra la famiglia Trump ed emissari di un governo straniero per giunta ostile agli USA. Un tassello chiave per l'inchiesta che potrebbe incriminare Donald Trump per ostruzione alla giustizia e proporre un impeachment. I Trump minimizzano, dicono che non se ne fece nulla, ma per democratici e repubblicani in Parlamento il fatto è grave. Per quanto sia feroce la campagna elettorale, l'intrusione della Russia, dei suoi servizi, dei suoi leader, forse persino Putin, nel processo elettorale democratico americano è inaccettabile. E allora lasciate che vi racconti la storia, interessante, complicata, storia che, avendo a che fare con Trump e come in ogni thriller che si rispetti, non poteva che avere come protagoniste delle belle donne. So Miss Universe 2013 is Venezuela, Gabriella Isler! Ecco, per chi non avesse afferrato la sigla e quello che si diceva, il primo contesto, tra virgolette, femminile che riguarda questa strana vicenda è il concorso di Miss Universe. Miss Universe apparteneva a Donald Trump, era una delle attività del presidente americano. A un certo punto Trump decide di portare il concorso in Russia e di coinvolgere Emin Agalo, che è una nota pop star russo azzera, insieme al padre Aras, che era un importante impresario russo. Ecco, questi due Agalarov erano stati scelti da Trump per portare questo concorso di Miss Universe a Mosca nel 2013. Cosa succede? Che sono questi due personaggi che si mettono in contatto con un importante giornalista britannico, un ex giornalista britannico che adesso fa il consulente, che si chiama Rob Goldstone, il quale conosce molto bene Donald Trump e i figli naturalmente, ed è lui che manda l'email, tra virgolette, incriminata. E un'email in cui spiega che Natalia Vezhelnitskaya, amica dei signori Agalarov, ha delle informazioni molto preziose su Hillary Clinton che potrebbero cambiare i destini della elezione americana. Donald Trump Jr. ha detto che lui, avendo ricevuto questa email, naturalmente voleva ascoltare quali fossero queste informazioni, che riteneva che queste informazioni venissero semplicemente da una persona privata, da una donna, da qualcuno che era vicino a degli amici della famiglia Trump, ma che non ci fosse alcuna interferenza del governo russo. It's quite possible that maybe they were looking for this kind of information and they wanted it so badly that they could only hear what they wanted. I was interested in something else. Меня интересовало другое. Ecco, qui entriamo in dettagli tecnici, ma naturalmente sono poi questi dettagli che creano il giallo. Qui parliamo di Sergei Magnitsky. Sergei Magnitsky aveva denunciato nel 2009 dei tentativi di corruzione da parte del governo russo in relazione in particolare a un'operazione su Cipro ed era arrivato molto vicino a denunciare addirittura il Cremlino e sembra lo stesso Vladimir Putin. Beh, e che cosa è successo al signor Magnitsky? È finito quasi subito in prigione, dove è poi morto. E questo ha creato una grossissima reazione negli Stati Uniti, soprattutto nel Congresso americano, e il Congresso ha approvato una legge per sanzionare cittadini russi che sono sospettati di abusare dei diritti umani. E questa legge ha fatto impazzire Vladimir Putin, si è sentito offeso, si è sentito attaccato direttamente da Washington e ha cercato di reagire in ogni modo, scatenando delle pressioni di lobby, ma anche proibendo l'adozione di bambini russi da parte di cittadini americani. Insomma, è partita una grossa battaglia. Ma chi ha gestito le operazioni di lobby per questa vicenda oscura? Beh, è stata proprio l'avvocatessa Vaselinskaya. È stata lei che esercitava pressioni a Washington perché questa legge Magnitsky fosse rivista, perché si prendessero in considerazione alcune irregolarità compiute dallo stesso Magnitsky. Naturalmente il Congresso non ha mai ceduto, ma ecco che arriviamo alla chiusura del cerchio, perché è l'avvocatessa che è vicina indubitamente al Cremlino, comunque a servizi che lavorano per il governo russo, che ha avvicinato attraverso questo mediatore i Trump, li ha incontrati, poi il resto, il dettaglio non lo sappiamo. I Trump dicono che la signora non ha poi dato delle notizie importanti o rilevanti sulla campagna Clinton e che ha voluto parlare soltanto della questione delle adozioni, quindi ne ha fatta poi una questione umanitaria, e che loro non l'hanno più rivista e non hanno saputo assolutamente nulla. Ma il punto importante, per tornare a Mueller, per tornare al Russiagate, per tornare all'inchiesta di un procuratore il cui obiettivo alla fine è di capire se dovrà incriminare o meno il presidente degli Stati Uniti per aver, come dire, compiuto la violazione di ostruzione della giustizia. E qui gli elementi cominciano ad esserci, perché, riassumo, una email molto chiara in cui si proponeva un incontro con un'avvocatessa russa che aveva informazioni riservate sulla Clinton è stata non solo recepita, ma poi c'è stato il seguito con l'incontro. E come dire, non è normale che dei candidati alle elezioni in un paese ricevano delle informazioni contro un avversario in arrivo da un governo straniero. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, direi siamo in mezzo a un giallo, potrebbe essere un film questa storia che include Miss Universe, cantanti pop di origine azera, un giornalista britannico e la famiglia Trump. E dunque dei Dire Straits, Private Investigation. It's a mystery. Expenses, confidential information. It's in a diary. This is my investigation. It's not a public inquiry. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!